noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Aspetta, problemi. Incredibile situazione per la Ferrari. Subito nel primo giro era troppo anomalo quel sorpasso di Verstappen così. Box per lui. In box. Lo chiamano ai box. Car, I'm afraid. Ritirano la macchina. Colpo di scena clamoroso. Eccolo qua, Sebastian Vettel è sceso la macchina, è arrivato con questa immagine la notizia ufficiale del ritiro di Sebastian Vettel. Si riparte innanzitutto girando pagina, motivati, facendo delle analisi precise su quanto è successo e tornando a Austin decisi a giocarcela. Andiamo a sentire la musica, ma forse ne mai, come dicono a Milano. Giorgio Druga, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Leo Turrini, sono qui in coda, sono a Piero Corbano. Indovina che cosa ho in mano. Io ti rispondo prima per segnalare. Indovina cosa ho in mano. Sì, ma il motivo di questa coda sulla Piero Corbano è che c'è una processione. Candela o cerino? C'è la candela portata da Sergio Marchionne. Ma c'è anche Ventura scortato da Buffon con un grande cero, hai capito? Perché nel calcio la nazionale azzurra ha bisogno di affidarsi ai santi. Cosa vuoi che ti dica? Questa storia della candela che si è spenta sulla macchina di Vettel in Giappone ci consente di salutare il triplete degli orrori della rossa, no? Sì, il triplete degli orrori. Ma triplete proprio... degli orrori. Singapore, incidente in partenza. Malesia, si sfasciava il condotto d'aria del turbo. Giappone, la candela. Io penso però che Marchionne abbia individuato la soluzione. Vuoi sapere qual è? Dica. No, la soluzione è far togliere dal calendario del mondiale di Formula 1 le gare in Asia, perché portano sfiga. È evidente. Ragazzi, allora ci sono le prove, Turrini. Ci sono le prove. Meno di un mese fa la Ferrari si è imbarcata alla volta del sud-est asiatico con grandi speranze, giustificate anche dalla qualità della prestazione della macchina. Ricorderete la fantastica pole di Vettel a Singapore, eccetera. Dopodiché trascorre meno di un mese e noi ci ritroviamo malinconicamente qui con una candela in mano. Con una candela in mano, esatto. Si è spento, com'era quella canzone, si è spento il fuoco, chi l'ha spento sei tu, non mi ricordo più. Fatto sta che ci dobbiamo rassegnare al quarto titolo mondiale del Re Nero. Io del Re Nero che ormai qui vince con la sigaretta in bocca. Marchionne che porta questa candela e Ventura e Buffon che hanno questo cero, hai capito? Perché senta, poi ti chiedo la tua anche su Buffon e Ventura. Ma insomma, sono preoccupato. No, ma allora detto, io invito tutti a partecipare, criticoni e assolutisti, coloro che assolvono, 800-24 assolutisti, coloro che assolvono. Lutto strettissimo, poi 800-24. Questa candela lentissimo 0024 800 24 0024. Ricevo tonnellate di messaggi, tra cui ma oggi Bonturrini è in onda, come spiegherà questa tremenda figuraccia della Ferrari e del suo santo bevitore. E come la spiego? No. Vorrei distinguere, fermi tutti. Allora, se c'è una cosa della quale la Ferrari può essere certa è la qualità dei suoi due piloti. Io lo dico sempre, purtroppo lo dimostrano anche le vicende asiatiche. È chiaro che se la macchina si rompe diventa molto difficile per Vettel competere con Hamilton. E per quanto riguarda Raikkonen, dato che qui subito ancora tre palle un soldo, spariamo sul vecchio rimbambito. Allora, in Singapore ha fatto una partenza fantastica con l'incidente, era sicuramente l'unico che non c'entrava nulla. Sì. In Malesia, cioè 8 giorni fa, ha fatto il secondo tempo a 4 centesimi da Lewis Hamilton, poi non è partita la domenica. In Giappone ha sbagliato nelle prove libere, ieri da 15° è arrivato 5°, ha fatto 10 sorpassi più che di che tutti. Vuoi fare? È arrivato dietro le due Mercedes e le due Red Bull, che partendo da decimo è il massimo che puoi ottenere. Io non so poi se c'è gente che continua a credere che la Ferrari non vinca il mondiale da 11 anni perché i piloti non sono all'altezza. Vabbè, dai, raccontiamola a qualcun altro. No, raccontiamola a qualcun altro. Perché Vettel qualche titolo l'ha vinto, perché Vettel è un signor pilota, insomma, non può essere messo in discussione. No, guarda, veramente qui siamo, scusa, vedo sempre la sagoma di Marchionne che procede lentissimo con questa candela in mano, scortato da Buffone e Ventura che hanno questo cero. Voglio dire, è la solita storia che uno indica la luna e ci sono quelli che guardano il dito. Ma certo, è lì che voglio arrivare. Perché? Perché io, perché? Controcorrente, anche oggi nel giorno della tua disperazione, do un voto alto, tipo 7.5 alla stagione della Ferrari, perché sfido lor signori ad alzare la mano se qualcuno pensava di poter arrivare a quest'ora del mondiale, maestro, in questa situazione. E poi Genta, questa lei, macchina è una promessa per il futuro, secondo lei, me. Maestro Genta, come sempre, dimostra di meritare l'etichetta di Tolstoi e Dostoevsky della radio, ha detto una cosa giustissima. Allora, io sono il primo a essere dispiaciuto, intendiamoci, tu stai in testa al mondiale da primavera a fine estate. Vinci 4 gare, fai 4 pole position, sei quasi sempre, tranne Monza, in lotta con la Mercedes in ogni gran premio, sì, sì. E poi di botto vai in Asia, che ripeto deve essere tolto dal calendario della Formula 1 proprio come continente, no? Te ne capita di ogni e perdi il titolo senza potertelo giocare fino all'ultimo metro dell'ultima gara. Come si fa a non essere amareggiati e non provare un fortissimo disappunto? No, però ma questo è evidente. Hai detto una cosa sacrosanta, cioè qui non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, la gente che lavora in Ferrari adesso viene sbertucciata perché la macchina non parte, si rompe subito. E certo, quello che è successo è grave e bisognerà dare delle risposte, individuare cosa non ha funzionato in fabbrica, eccetera, e ci sono le persone preposte a questo. Però non dimentichiamo che appunto fino a 10 giorni fa, fino al venerdì della Malesia, tutti dicevano la Ferrari una squadra fantastica, che ha fatto un lavoro eccezionale, una macchina buonissima. Adesso allora, è un cesso di macchina, no, ma lo so, perfetto. Questo fa parte del gioco, siamo in Italia, questo. Poi soprattutto vedi un po' tu. Ma capisco, l'Italia è così, no, poi c'è questa però, cultura. Però Leo, lasciami capire, dimmi, invece, caro, questa macchina è una promessa per il futuro, perché è evidente che è nata bene, da Mercedes è ancora più forte come d'altra parte sapevamo, ha un pilota mostruoso secondo me, perché io il nero lo adoro, tu lo sai. Però se si sviluppa questa corrente, se seguiamo la corrente, follow the flow, dicono gli inglesi, va bene, allora sfociamo in una prossima stagione che ci può promettere qualcosa. Guarda, di diverso. Tu stai seguendo la corrente, io seguo la processione dietro Marchione con la candela, Ventura e Buffon con il cero. Io la penso esattamente così, cioè la Formula 1 tanto non è il calcio, perché qui purtroppo, per fortuna, noi siamo in Italia, abbiamo questa cultura delle panchine, così salutiamo anche la memoria del caro Aldo Biscardi che ci ha lasciato nel fine settimana, la cultura del calcio che si perdono due partite, si caccia l'allenatore e cambia tutto. Allora, nell'automobilismo non è così, non è mai stato così. Io sento dire spesso da incompetenti assoluti, gente che non conosce la storia, ma Enzo Ferrari, se fosse successo con lui, questi li avrebbe spediti. Ma veramente Enzo Ferrari ha tenuto il mio amico ingegner Mauro Forghieri a capo, certo, del reparto corsa dal 62 all'85, e in mezzo ci sono passando stati passando attraverso vittorie e sconfitte, questo è chiaro. Cioè, bisogna avere un senso della continuità. Allora, se si pensa, come tu dicevi, e io credo sia corretto, che in quest'annata la Ferrari abbia fatto dei grossi progressi, sia stata lì a giocarsela con Mercedes e alla fine, per delle colpe, chiaro, perché se cominciano a rompersi i pezzi mica puoi dire che non è colpa di nessuno, siamo stati bravi, ma chiaro, ci mancherebbe chiaro. Altro. Però la linea di tendenza, come dite voi che avete studiato, è buona, è quella giusta. Vettel è un grandissimo pilota, come lo è Hamilton. Quando io sento dire ma Vettel ha compromesso la stagione, ha fatto degli errori, ma io mi domando, ma in che film? In Blade Runner 2049 forse? Io non vorrei che poi il 2049 diventasse l'anno del prossimo mondiale della Ferrari, perché se continuiamo a farci del male da soli, no? Se riusciamo a discutere persino Seb, allora veramente, vabbè, come fai a discutere un pilota che ha vinto, andiamo al cinema, ma è una roba veramente, io non lo so, probabilmente sto diventando sai come diceva Prezzolini, un apota, sai cosa vuol dire apota? Quelli meno, che non la bevono, più o meno, sì, quelli sì. che non la bevono, ecco, io queste teorie non le bevo più, no, cioè, ma non ne beve più nessuno, se non perché sono qualunque. Che Vettel ha fatto degli errori lui, che Raikkonen, non ne parliamo, è rincoglionito, ma io non lo so, cioè, 10 giorni fa era la squadra migliore del mondo, una coppia di piloti straordinari, adesso tutti imbecilli. Ma questo è un paese, ma tu sai dove abitiamo, meno male, no? Che c'è gente. Tu lo sai dove abitiamo. Meno male che già Turrini adesso ti do le informazioni sul traffico. Ti saluto, ci sentiamo venerdì al più tardi. Un abbraccio. E sentiamo come va la processione con Marchionne, Buffone, Ventura. E poi appunto parleremo di Buffone, Ventura e degli altri azzurri. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Quello che volevamo darci fra di noi come messaggio era quello di scuoterci. E semmai di essere proprio a sostegno in campo e fuori dell'allenatore. Questo secondo me è un punto importante. Lo stato d'animo è di assoluta serenità per come ho visto lavorare ancora stamattina. Mi aspetto sicuramente un passo avanti rispetto al secondo tempo contro la Macedonia, su questo non c'è il minimo dubbio. Ma non c'è bisogno di una partita per dire, perché in realtà di partite centrate le hanno centrate quasi tutte tranne uno o due, quindi voglio dire non mi lamento assolutamente niente, anzi sono assolutamente soddisfatto del percorso che abbiamo fatto da quando siamo partiti. Buffone, Ventura, possiamo leggerla così, la accusa e la difesa dell'azzurro e soprattutto del lavoro del commissario tecnico. Quello che è successo dopo la partitaccia contro la Macedonia lo sappiamo tutti, non è un segreto di questa riunione tra gli anziani, i senatori e i giocatori, comunque con Ventura non gradito, con Ventura che è stato escluso, eccetera. Stasera c'è l'Albania da vincere questa partita in Albania per rimanere nell'urna privilegiata, quella delle prime quattro. In questo momento ci sarebbero Portogallo di Cristiano Ronaldo, peraltro, con un mondiale che rischia di perdere Cristiano Ronaldo e Messi tutti e due, e magari anche l'Italia, chi lo sa, speriamo di no. Portogallo, Galles, Danimarca e Italia in seconda fascia, Nord Irlanda, Svezia, Slovacchia e Grecia. Questo allo stato dell'arte, al netto dell'ultima giornata. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come ciao. Va? Molto bene, speriamo meglio domani, meglio stasera tardi. Assolutamente. Anche se c'è Paolo Tramezzani in linea, che ha guidato insieme a Gianni De Biasi la nazionale albanese, prima di Panucci ovviamente, fino a portarla, direi, nella buona borghesia del calcio europeo. Ciao Paolo. Ciao, buona giornata. Abbiamo ragione ad avere paura di questa partita? Paura no, ma io credo che l'Italia debba fare una partita vera. Vera stasera, perché Italia-Albania per gli albanesi non è una partita normale, è la prima partita certo. ufficiale che giocano a Tirana, c'è la volontà di cambiare, di chiudere comunque questo girone di qualificazione a testa alta, di dare continuità ai risultati che sono stati ottenuti in precedenza, ed è una squadra che io ho avuto modo di vedere anche in Spagna, al di là di quei 15 minuti in cui ha preso 3 gol, ha costruito veramente tanto, si è resa pericolosa, e quindi sono convinto che stasera l'Italia dovrà fare una grandissima partita. Siamo nelle condizioni di fare una grandissima partita? Questa è la domanda. No, che croce no, però insomma, siamo nelle condizioni di poterla vincere. Io condivido al 100%. La partita con la Macedonia aveva una difficoltà che era soprattutto di carattere psicologico, è andata malissimo. La partita di stasera affianca le difficoltà di carattere psicologico delle difficoltà sul livello dell'avversaria, perché l'Albania è certamente la terza forza di questo girone. È una squadra che è cresciuta molto, anche grazie al lavoro di Biasi e di Tramezzani in questi anni. Tanti giocatori, oltretutto, che conosciamo, che giocano nel nostro campionato. Tutti gli aspetti ambientali, ha fatto benissimo Paolo a ricordarli, sono assolutamente positivi. Mi ricordo ancora l'esodo, se non sbaglio, a Marassi. Quell'Italia-Albania. Ma c'è un amore sconfinato. Sì, c'è amore e giusta rivalità, no? Cioè, proprio chiaro. È chiaro che noi siamo, il calcio italiano in Albania è popolarissimo, la TV italiana è arrivata in Albania, poi c'è stato ovviamente Bari, con tutti gli aspetti sociali che questa vicenda ovviamente comporta, ma insomma, dal punto di vista calcistico mi sembra che ci sia una sana rivalità molto bella e molto rispettosa, quindi siamo il loro punto di riferimento, siamo un paese calcisticamente più vicino e il loro modello, quindi figurati se stasera ci regalano qualcosa, no? Quindi, insomma, con Cristian in panchina, insomma, voglio dire, c'è tutta una serie di elementi che rendono questa partita ancora più complicata. Detto questo, insomma, poi alla fine conta il risultato, alla fine questo vale anche poi per i playoff. Se noi poi non saremo in grado di passare il turno, vabbè allora non te lo meriti andare ai mondiali, questo è evidente, questo è evidente. Paolo, ti voglio chiedere ancora una cosa. Paolo Tramezzani, ora allenatore del Sion in Svizzera. Allora, come valuti da allenatore quella riunione famosa di cui si è parlato e si parlerà ancora? Ma normale. Normale, cioè, senza l'allenatore? La farei rientrare nella normalità. Mi è successo quando giocavo, quando c'erano momenti di particolari, ecco, che la squadra si trovasse senza l'allenatore. Non è, secondo me, voluto proprio di proposito escludere l'allenatore, perché l'allenatore non fa parte di questo progetto. È stato un modo di riunirsi, di confrontarsi, di cercare di capire come andare avanti, una partita imminente, difficile, qualche ora dopo, quindi è stata molto positiva. Ecco, poi le parole di Buffon, mi ricordano molto anche le parole di 2 anni fa, dopo la sconfitta della Juve a Sassuolo. Ecco, la responsabilità da parte dei giocatori più esperti in questo momento penso sia molto importante, si sono schierati con l'allenatore, e quindi io credo che questo sia un aspetto positivo e un vantaggio per quello che potrebbe essere la gara di stasera, non solo, ma anche in previsione delle 2 partite di novembre, degli spareggi. Grazie Paolo, a presto. A buon lavoro Paolo Tramezzani, buon lavoro in Svizzera. Allora, adesso io saluto un altro nostro amico che lo sentiamo da un po', colpevolmente, non so perché, ma sarà perché è impegnatissimo. Chi abita a Pardo ai piani alti di Sky? Federico Ferri potrebbe Bravo, essere. Sì, è chiaro. Okay. Lo faccio dire dipende a te perché dal piano. Che piano c'hai, Federico? Al secondo, te lo dico io. Bravo, sempre secondo, ho messo una brandina così almeno posso soffermarmi durante la notte. Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Dimmi, dico, Fede. Come state? Sono contento di essere di nuovo con voi. Noi anche. Senti, valutami Ventura, l'esperienza di Ventura CT della Nazionale. Lo assolvi o lo condanni? Giusto per andare giù col piumino. No, io lo assolvo semplicemente perché il verdetto finale non può ancora essere emesso. Io credo che se noi ci fermiamo alla sera prima, al pomeriggio prima della partita contro la Macedonia, credo che il risultato sul campo fosse quello che tutti ci potevamo aspettare, sì. Perché l'obiettivo playoff da testa di serie era l'obiettivo più credibile per questa squadra, pensando che secondo me la Spagna sul proprio confronto comunque superiore. Dopo la partita con la Macedonia, certamente con il ranking a rischio, con la prestazione che è stata messa in campo allo Stadio Grande Torino, certamente qualche dubbio rimane. Detto questo, io credo che sia ancora troppo poco per giudicare questa esperienza in modo completamente negativo, perlomeno imputando soltanto a Ventura le colpe. Sì, questo senz'altro. Però, Pier, arriviamo a questo punto con il minimo risultato e il massimo sforzo, considerato anche l'umore di questa nazionale. Abbiamo sentito prima Tramezzani su quella famosa riunione, però è chiaro che non c'è quella sintonia che poteva esserci con il solito Conte, eccetera, eccetera, perché lì poi vai a cascare sempre. Io continuo a pensare che alla guida della nazionale ci voglia un uomo forte, un uomo di carisma, un uomo però lo dicevamo di quel anche tipo. Ieri, quella è un'anomalia, cioè l'idea che uno come Conte, come Ancelotti, come Guardiola, come Mourinho possa allenare una nazionale è un caso che è assolutamente... assolutamente non capita mai. È capitato in quell'estate, in quella situazione, perché c'era la possibilità di andare a prendere Conte, e perché Conte si è fatto in qualche modo trovare, contagiare in positivo, ma questa non è un'opzione, così come ci ha detto ieri proprio Alessandro Alciato, Ancelotti oggi non è un'opzione, quindi tutti i discorsi che si fanno ovviamente sulla possibilità di cambiare sono discorsi abbastanza teorici. Io sono d'accordo con Federico, è chiaro che la posizione in classifica non è del tutto diversa, non siamo terzi, siamo secondi, siamo io dalla Spagna, era prevedibile. Quello che non ha funzionato sicuramente la partita d'altro giorno è il trend, perché quando tu senti dire da Buffon che la partita con la Spagna ha avuto poi un effetto negativo che si è esteso la partita successiva, che speriamo si sia esaurito e speriamo stasera di avere segnali diversi. Questa è la cosa inquietante. Poi il resto, onestamente, sì, rientra nella, insomma, nelle previsioni della vigilia. Ha ragione Federico. Sì. Passare da Conte a Ventura, proprio dal punto di vista veramente del maschio alfa, della leadership dell'allenatore, di quello che è anche la percezione dal punto di vista mediatico dei tifosi, era difficile. Certo. Non si sapeva. Poi è chiaro che banalmente un top coach non rinuncia ai 5, 6, 7 milioni di euro l'anno, quelli che sono, che gli danno per allenare un top club, per un milione e mezzo, io la butto sul grano, molto brutalmente, anche in questo caso, per allenare una nazionale. Federico, come ti sono sembrate queste qualificazioni? Ne avete trasmesse? Ci sono storie interessanti da raccontare, ma soprattutto potremmo arrivare ad un mondiale senza Messi, senza Cristiano Ronaldo e magari senza l'azzurro. Ipotesi che tutte insieme, proprio come intero pacco, vorrei scongiurare, neanche fosse un pacco con la dinamite. Ma perché sono d'accordissimo. Mi sono sembrate e mi sembrano un bello spettacolo, e devo dire che questa formula di qualificazioni funziona, è efficace sia per gli spettatori sia per la televisione, crea un grande interesse nei confronti di queste partite. Io credo che la diretta gol di questa sera, e soprattutto direi ancora di più quella di domani notte delle qualificazioni sudamericane, è un appuntamento veramente straordinario, perché è ancora tutto in ballo, e soprattutto ci sono quei nomi che hai fatto tu, cioè sapere che tra oggi e domani Cristiano Ronaldo e Messi si giocano il posto al mondiale, ci mette un po' in ansia, ma è comunque sportivamente una sfida bellissima, anche da raccontare in televisione come faremo oggi e domani. Domani peraltro avremo anche la notte con Cattaneo e Adani, quella la noce del football che in attesa della partita dell'Argentina e non solo. Però dicevo, la formula funziona. Se posso permettermi chiudere ancora un appunto sull'Italia, è vero quello che ho detto prima, cioè che siamo dove più o meno dovevamo essere. Quello che secondo me è meno accettabile è che intorno a questa nazionale, dall'interno soprattutto di questa nazionale, arrivino messaggi a proposito della povertà del calcio italiano, del problema della condizione atletica, del fatto che gli italiani giocano poco nelle squadre, che sono messaggi secondo me sinceramente poco accettabili, perché gli stessi messaggi li poteva dare Conte, in parte li dava, ma i risultati erano differenti, sono stati differenti almeno all'europeo come spirito, come gruppo, come unità, come gioco. E soprattutto io non penso che lo stato attuale del calcio italiano sia così negativo come viene fatto, viene rappresentato in quelle dichiarazioni. No, anche questo è un po' qualunquismo. Esatto. Più che qualunquismo, secondo me, è il tentativo da parte di Ventura di difendersi e di mascherare alcuni problemi. Io credo che il miglioramento degli ultimi anni ci sia stato, in qualche modo, secondo me, è stato anche incentivato dalla apertura verso i giovani di questo allenatore, di questo commissario tecnico. Secondo me ha fatto un buon lavoro, poi è ovvio che il vero lavoro lo fai nei club. La situazione del calcio italiano, e mi pare che anche le coppe in qualche modo lo stanno forse evidenziando, è in lieve miglioramento rispetto agli anni scorsi, quindi ma sì, poi è chiaro che in quel momento lì però è essenzialmente un accampare scuse, cioè secondo me c'è un problema di comunicazione, quindi sono d'accordo con Federico, ma il problema secondo me realmente poi lì è di comunicazione, certo, del non saper gestire un momento di evidente difficoltà da parte del CT. Chiaro. Che è una difficoltà accettabile, ripeto, perché non è morto ancora nessuno e speriamo che nessuno si faccia del male. Speriamo che queste qualificazioni siano state una cosa straordinaria dal punto di vista della sceneggiatura, perché avere Cristiano, Messi e l'Italia che lottano che giocano all'ultimo minuto, beh, è evidente. Speriamo che succeda. Federico, ti ringrazio, a presto. Ciao, grazie a voi, vi chiamo all'una e mezzo domani per vedere se siete svegli. Io ciao. Sì. Io sì, parlo non so. Grazie Federico Ferri. E figura gioca l'Argentina, sono già teso. Ci fermiamo per la borsa, torniamo 800240024 e parliamo con qualche ascoltatore. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Parte Pirlo col destro! mette all'incrocio, la Juve in vantaggio, ancora le punizioni di Pirlo come 4 giorni fa. Nuovo Giovinco, vediamo se parte uno schermo. Pirlo va in porta, in porta Pirlo direttamente su calcio di punizione. Poi Perez difende questo pallone, prova ad andare verticalmente, palla verso Benassi, disturbato Benassi, l'intervento è regolare da parte di Bonucci, possibilità per la Juve, ancora con Morata, il tocco nella zona di Vidal, lo scarico verso Pirlo, Pirlo prova, Pirlo! Pirlo! Pirlo! 2-1 Juve, minuto 93, minuto 93, in 10 contro 11, Pirlo con una traiettoria incredibile, trova il gol del 2-1, un finale incredibile, un finale pazzesco. Beh, Pierluigi Pardo, questa l'hai riconosciuta, la tua voce raccontando quel gol nel derby, se non ricordo male, con il Torino. Sì, sì, no, lo sentivo lontanissima, non so perché, se l'effetto del, del telefono che si estende, che no. Andrea Pirlo che saluta il calcio. Tu hai avuto comunque la fortuna di raccontare praticamente l'intera carriera, no, di questo giocatore. Assolutamente. Guarda, sì, pazzesco è un aggettivo un po' abusato perché lo usiamo spesso, però è veramente adattissimo. Trovami un altro. No, ma va bene. Tanto va bene tutti. Mi piace perché Pirlo è stato veramente un professore, un visionario, un artista, un giocatore di grandissima geometria, un giocatore che ha migliorato con gli anni. Un giocatore che ha vissuto su di sé una grande evoluzione tattica, il merito ovviamente è di Mazzone e Ancelotti che l'hanno spostato in quel ruolo e ne meritano ovviamente un grande applauso, però il merito è anche suo perché quando un giocatore scopre nuovi skills, nuove qualità, si adatta a una situazione diversa e comunque ed è un trionfo come è stato, vuol dire che c'è evidentemente un elemento suo anche di riduttività, di curiosità, di disponibilità al cambiamento che deve essere considerato. Grande giocatore, grandissimo giocatore, su livelli secondo me altissimi, cioè siamo proprio nella categoria dei più grandi. Poi è ovvio che non è un attaccante e quindi non ha mai vinto il pallone d'oro o cose del genere, però dal punto di vista della qualità, ecco, è nella categoria degli Iniesta, per beh, capirci. Chiaro, cioè, ma è la categoria degli Iniesta, gli Iniesta sono la categoria dei Pirlo, gente che ha scritto la storia recente del calcio. Esatto. Invece, chi ha scritto, non lo chiedo a te perché ovviamente è storia diversa, però conducendo un programma lunedì notte in quella fascia, insomma, quella fascia è stata inventata, un certo linguaggio è stato inventato da Aldo Viscardi, che tante volte è stato deriso, dileggiato, distrattato, trattato come un analfabeta, però si è inventato anche lì un pezzo di storia della TV. Beh, innanzitutto mi dispiace, ho letto distrattamente stanotte perché ero fuori, anche addirittura qualche polemica tra colleghi, insomma, mi dispiace quando muore una persona, oltretutto una persona simpatica, divertente, eccetera, è un grande dispiacere, 86 anni, quindi una lunga vita, però insomma ti fa comunque grande dispiacere. È stato un grande innovatore non solo nel calcio, direi proprio nella TV italiana, nel senso che ci sono tante trasmissioni che assomigliano a quel processo, la maggior parte delle quali non sono trasmissioni calcistiche ma sono trasmissioni politiche. O comunque di cronaca e di attualità. Alcune cose sono assolutamente geniali, un senso proprio pop per la notizia, per l'ascolto, con qualche esagerazione. È ovvio che quando diceva sono arrivati 3 milioni di voti, magari erano 300.000 o forse addirittura 30.000. Insomma, alcune cose erano volutamente un po' grottesche, un po' teatrali. Però stiamo parlando di una delle persone, non sono molte, che ha rivoluzionato la TV italiana in un'epoca completamente diversa, perché in quel periodo lì il calcio non lo vedevi un tempo di una partita di Serie A la domenica alle 19. Ed era anche più facile comunque avere accesso ai tanti sgub che Viscardi aveva. Però una cosa vera, una cosa secondo me fantastica, e poi in qualche modo io ho riproposto tanti anni dopo, è il fatto di aver portato personaggi non comuni, non strettamente calcistici a parlare di calcio. Cioè, questa intuizione qui è assolutamente viscardiana e gliene do, ci mancherebbe altro, completamente merito, nel senso che lui è stato il primo a portare i registi, i politici, gli appassionati in televisione. No, a me dispiace molto e credo che sia stata una persona di grande di grande talento e di grande intuito. Questo è indiscutibile. Assolutamente. Allora ci ricordiamo tutti Andrea Otti, il processo di lunedì, ma è il primo che mi viene in mente, insomma. Tutti, perché erano anche ovviamente altri tempi. Erano ovviamente altri tempi. Nella terza rete della Rai, cioè è stato una delle persone che ha fatto bene a Rai 3, nel senso delle persone che ha contribuito alla crescita di un canale che era appena nato, comunque doveva ancora affermarsi, e l'ha reso protagonista con un prodotto pop che quindi era un po' meno in linea, diciamo, con la tradizione e con il DNA di quella rete, e quindi gli ha fatto benissimo, come tutte le contaminazioni funzionano sempre, perché appunto ti fanno scoprire aspetti e lavorano sul carattere, in questo caso, di un canale televisivo in maniera profonda e molto efficace. Grazie ad Aldo Biscardi per quello che ci ha dato, e grazie anche a Davide Venezia e Andrea da Perugia per averci aspettati in linea. Davide, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per essere stato convocato. Volevo fare una domanda, ma visto che il monte ingaggi che oggi è a disposizione della nazionale non è sufficiente per avere un top allenatore, ma non è possibile pensare a un allenatore a doppio servizio, quindi un grande allenatore da club che sia anche allenatore della nazionale, o è utopia questo? Questo è un discorso piuttosto lungo, vecchio tema che con me trova, insomma, assolutamente terreno fertile, perché è una mia idea anche, poi sono in minoranza. Sì, no, ma infatti non è una cosa sbagliata, però non è facilissimo secondo me, soprattutto dal punto di vista del club. Nel senso che la nazionale magari è pure d'accordo, ma il club, cioè andare al Manchester United a dirgli scusa Mourinho, adesso il sabato sera dopo che finisce la partita vola a Coverciano o a Lisbona perché deve allenare la nazionale, non è semplicissimo secondo me, quindi non è facilmente risolvibile, e è un problema non solo della nostra federazione, questo è un problema che riguarda tutti, sì, riguarda sì. Soprattutto le federazioni di grande tradizione, perché un conto è la nazionale cinese che può andare da Lippi a fare un'offerta, con tutto il rispetto per la Cina, no? Può andare dal grande allenatore, magari un po' in là con la carriera, ma è un po' age ed è un figlio, dei soldi che altro parte ma le grandi nazionali alla fine si affidano cioè non è che Lopetegui sia uno che ha vinto la Champions o i campionati, eccetera. Quindi è assolutamente, ma poi ti ripeto, secondo me Ventura adesso siamo sempre un po' figli dell'istante, in questo momento sta facendo degli errori tecnici, sta facendo anche degli errori di comunicazione, come diceva giustamente Federico Ferri, siamo tutti un po' abbacchiati, siamo tutti un po' preoccupati. Fino a due partite fa Ventura aveva fatto pienamente il suo lavoro. Sì, quindi, anche se continuo a pensare che comunque per una nazione serve un profilo diverso, non ti dico migliore o peggiore, però, secondo me, però, e poi risolvi col doppio incarico. Abbiamo visto la nazionale allenata da Messina che alla fine non è arrivata dove voleva arrivare, però è stata comunque un'epoca fortunata. Abbiamo avuto comunque un epico allenatore del mondo. Era la nostra vecchia idea della riforma dei calendari, perché poi presenteremo una proposta di legge al governo del calcio mondiale. Sì, certo. di fare le qualificazioni a maggio-giugno, anticipando la stagione, e fare le qualificazioni degli anni dispari. Questo avrebbe anche quel vantaggio lì. Avrebbe il vantaggio che sarebbe molto più facile a quel punto per le grandi nazionali avere allenatori top, perché durante l'anno potrebbero tranquillamente fare gli osservatori come fanno di fatto, perché sono tutti osservatori, e allenare grandissimi club, e poi il 20 maggio, quando la stagione finisce, dal 20 maggio al 5 luglio degli anni dispari, ci sono le qualificazioni per il mondiale o per l'europeo, l'Ancelotti o il Guardiola di turno vanno e partono. Poi certo, magari arrivano bolliti al ritiro con la loro squadra di club, però sicuramente sarebbe più facile questo tipo di soluzione anche dal punto di vista calendario rispetto a quella che c'è migliore oggi. Migliore da mille punti di vista. Fermiamoci per il traffico, poi Andrea. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Convocati. Dunque Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per la grazie convocazione. A lei. Dica. Volevo prima di tutto fare un plauso al traffico che finalmente riporta le code nella Peroformano, di cui si occupa solo il nostro Turrini. Ma venendo a noi, una domanda provocatoria sulla nazionale. Quando sono usciti i gironi ci siamo tutti lamentati della sfortuna che avevamo avuto a rincontrare la Spagna, ma visto i risultati, soprattutto le prestazioni dell'Italia con squadre di seconda, terza e anche quarta fascia, se fossimo capitati su un girone più equilibrato, non avremmo forse sofferto di più e rischiato anche di non qualificarci per i playoff? Grazie a lei, non lo possiamo sapere. C'è anche Max Nerozzi della stampa, ci ha aggiunto la compagnia. Ciao Max. Ciao, buongiorno. Ciao. Vado al volo su questa cosa qui. Io non lo so, nel senso che poi in realtà l'Albania come terza non è così scarsa, perlomeno nelle sezioni non sembrava così scarsa. No, io credo che noi non siamo stati fortunati, perché la Spagna è una delle poche nazionali, sono due o tre veramente indiscutibilmente più forti, e quindi avercela nel girone secondo me non ci ha aiutato. Detto questo, sì, poi certo, magari un girone come quello per esempio dove l'Olanda è persa, un girone con Francia e Olanda o con Francia e Svezia ci avrebbe messo più difficoltà, però insomma fortunati non siamo stati, questo va detto, ma no, ovviamente non è una scusante. Non deve essere una scusante nella maniera più assoluta. Max Nerozzi, che sulla stampa ha più volte anticipato il climax di questa nazionale che sta seguendo in Albania, anticipando determinate cose, da uno scarso gradimento di alcuni giocatori per il modulo di Ventura, appunto, fino a quella riunione di spogliatoio che è stata valutata positivamente da Tramezzani prima, ad esempio. Io non lo so quanto sia positiva, Max. Ma chiaro, io mi prometto di rispondere con una domanda. Ma vi immaginate voi una riunione della squadra a porte chiuse, con CT fuori, con Lippi e Conte? A me mi è sembrata una cosa surreale ieri l'altro e surreale la conferenza stampa di ieri. È ovvio che davanti a noi bisogna dire che non c'è nessuna fonda al CT, ci mancherebbe, però è una frattura che c'è e che secondo me non verrà sanata andando al mondiale. Se tu permetti, tu allenatore, una cosa del genere pubblica, tra l'altro, se non è ti consegni, dopodiché vedremo come andrà il corso delle cose. Un po' la penso anch'io allo stesso modo, cioè in questo momento Ventura quanto potere ha, quanto ascendente ha sul pochissimo, gruppo? Pochissimo. No, ma è che la cosa sia di per sé sbagliata, non c'è dubbio. La speranza, questo diciamo invece mi associo al pensiero di Tramezzani, è che nel momento nel quale una cosa del genere diventa pubblica, lo si sa ed è realmente un modo per i veterani della nostra nazionale di guardarsi negli occhi, porti da parte loro a dare quel qualcosa in più che può essere decisivo stasera. Insomma, la storia del calcio ha degli esempi di autogestione vincente. È chiaro che nel nostro paese, ma era successo a Donadoni dopo la sconfitta con l'Olanda, insomma, quando il CT non è fortissimo di suo, di tradizione, di storia, fatica tanto, certo, le prime difficoltà viene spesso a quel punto ci sono giocatori che gioco forza sono lì, non ti dico per diritto divino, ma quasi, insomma, che il commissario tecnico non deve selezionare, loro vanno, punto, loro giocano e punto se decidono di giocare. E non so quanto questo sia gestibile da parte di un allenatore, di un commissario tecnico, e gestibile anche nei confronti dell'opinione pubblica, perché non raccontiamoci le favole, no Max? No, hai ragione, e l'unico punto fermo di quello che diceva Pier, secondo me, è che a differenza di un club, se la Nazionale fosse un club, io penso che Ventura sarebbe stato esonerato, ma non per la Spagna, ma anche per comunque per Israele. E il problema della squadra qua è che se non vai al mondiale la figuraccia la fanno anche e forse soprattutto i giocatori. Buffon ha alcuni da conquistare, c'è molta gente che sarà all'ultimo giro di valzer, e chiudere con un'eliminazione ai playoff sarebbe molto molto brutto. Quindi ci si può compattare sull'obiettivo, però ribadisco, l'unione è un'altra cosa. Ho sentito qualcuno che scomodava anche l'82, ma nell'82 Berlocq faceva parte del patto, qui invece no. Certo, ma mi sembra profondamente diversa questa storia. Max, un'ultima cosa, io non riesco a essere particolarmente fiducioso in questo momento, perché in queste condizioni va a giocare sul campo dell'Albania Tirana, e anche per fattori ambientali, come dicevamo prima, non è esattamente una passeggiata nel parco. Devi vincere, rischi di scivolare nell'urna meno privilegiata, anche se pure qui non è che hai il Brasile, l'Argentina e la Germania come competitors, ma ne hai delle altre. Insomma, in questo momento compattarsi è necessario fare risultato, ma non così semplice. Hai ragione, e secondo me, io sentivo che parlavate del girone, la figura Albania è il numero 66, se riusciamo a fare il ranking FIFA, e al Macedonia al 103, quindi insomma sotto Trinidad del Tobago e Madagascar, e quindi sarà dura perché anche la testa di serie incontreremo comunque una nazionale, una buona nazionale, in spareggi, E al di là principio del compattamento mentale che è all'origine, bisogna cercare di giocare meglio, perché l'Italia, gli allenatori ci dicono sempre, giudicate la prestazione, benissimo, Israele 1-0, prestazione pessima, sono un discreto secondo tempo, con la Macedonia di avere una prestazione pessima. Sì. Questi sono i risultati. Grazie Max, alla prossima. Ciao, ciao Massimiliano Narozzi, dall'Albania, inviato dalla Stampa. Pierluigi, chiudiamo con, insomma, anche con te, con questo tipo di sensazione non così positiva, non così di fiducia. No, però è anche vero che delle qualità le abbiamo, e soprattutto quella riunione dell'altro. Guarda, io sono d'accordissimo con il discorso che faceva Narozzi adesso, cioè non è, in un club sarebbe drammatica questo tipo di situazione, perché è evidente che non c'è un certo tipo di fiducia, quindi in un club si sarebbe forse già cambiato allenatore. Ma un club significa una stagione lunga, 3-4 partite, le cose, cioè, diverse. Qui si brucia tutto in un attimo. Qui siamo di fronte a un gruppo di giocatori che deve portarsi al mondiale, cioè Buffon, Bonucci, questa generazione qui ha veramente, forse il caso di Buffon certamente l'ultima, e in qualche altro caso probabilmente l'ultima grande occasione, quindi siccome sono ragazzi di grande livello e di grande qualità, spero che tutto questo basti. Non arriviamo bene a questa partita, non c'è dubbio, cioè questo è il punto di partenza, però io vediamo a quelle che verranno. Io confido in uno scatto d'orgoglio stasera. Sì, ci confido anch'io, anche se mi sembra siamo un po' su un piano inclinato, ma comunque domani ne parliamo con le carte in mano. Grazie per Luigi Pardo, Giorgio Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!